fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, anche se di festeggiare obiettivamente è l'ultimo dei miei desideri, parliamo di festa. Il concetto di festa è un concetto molto dilatato e molto corrotto, soprattutto nelle ultime accezioni, soprattutto nel passaggio trapasso che c'è stato in televisione di ogni festa e festeggiamento per alleggerire i palinsesti. Cosa intendiamo per festa quando ci dicono vieni a una festa? Beh, qui nella ambientazione romana una festa significa andare a casa di qualcuno, si vede persone in piedi con il bicchiere in mano, il solito buffet, sempre le solite cose, esce trionfante dalla cucina con la grossa zuppiera, con la pasta, la matriciana, il giornalista di turno, il personaggio di turno, poi si parla, si chiacchiera, si parla male delle persone che non ci sono, ci si annoia, ogni tanto qualcuno si imbosca, si va, si infratta, insomma la festa è questo, una grande noia. Sui 50 anni, 60 anni qualcuno si apparta nell'angolino sotto la pianticella di limone, si fa ancora una canna, come se facesse la grande trasgressione. Poi esiste un concetto di festa più diffuso, più legato agli usi sociali, che è il matrimonio, la festa matrimoniale. Sempre nella stessa società romana che frequento, la festa matrimoniale di solito significa mettere assieme due persone di età media 40-50 anni e portarli in una finta chiesa, fare un finto matrimonio che dura 5 minuti con l'apparato scenografico, dovrebbe essere una sorta di imitazione delle antiche liturgie vituperate e rinnegate, ma in realtà poi ci si va tutti a mangiare, non so, alla casa del jazz, in uno di questi locali qui dove si mangia, si fa musica e si suona. Altro tipo di festa, la festa di paese. La festa di paese, la ricordiamo tutti con grande nostalgia, riguarda le nostre più profonde radici contadine. Tutti hanno avuto un nonno, uno zio, un parente, qualcuno che si andava a trovare. C'era la sagra paesana, con le bancarelle, con i piccoli giochini di plastica, con i trick e track, con il corteo che sfilava, con la banda e via dicendo. Oggi è stato un veloce e rapidissimo imbastardimento anche della festa di paese, è sacrato quel fenomeno meraviglioso che penso sia unico in Italia, della ricostruzione tarocca di un medioevo rinascimento che non esiste. A tutte le latitudini del nostro paese c'è sempre una proloco molto creativa che si inventa una sorta di passaggio storico in centri urbani totalmente imbastarditi da edificazioni selvagge, dalla mano assassina di geometri, dalla edificazione selvaggia, dall'orrore che ha ormai deturpato ogni latitudine del nostro paese. Beh, si inventano improvvisamente un corteo storico, quindi sono gli sbandieratori che ormai hanno perso la loro origine reale, storica, quindi transano dalla Puglia al Piemonte, alla Val d'Aosta, al Trentino, in polpe rinascimentali che non c'entra niente, assieme a personaggi invece con costumi medievali, sfilano, passeggiano dame e cavalieri. E poi, finale, esiste una meravigliosa maniera per vedere tutto questo universo che vi ho in maniera così visceralmente piena di disprezzo io esposto, che è il palinsesto televisivo, che di tutte queste feste fa sua polpa quotidiana, sua materia di meraviglioso racconto. Oggi ho in studio un'esperta di festeggiamenti televisivi che è la collega Rosanna Caccia. Rosanna, buongiorno. Buongiorno. Tu sei inviata della vita in diretta, uno dei luoghi televisivi da me più frequentati con attenzione e con interesse. Hai un ghigno però, Gianluca. Beh, certo, non potrei farne a meno. Mi piacere. È una semiparesi dovuta ai miei problemi cardiaci. Tu hai girato l'Italia per motivi professionali, sì. Hai conosciuto tutte le fattispecie che ho elencato. Tutto. La festa di paese, il medioevo tarocco, il matrimonio importante e il matrimonio meno importante. Qual è la molla fondamentale che spinge la televisione a occuparsi di questo retaggio di attività ludiche umane che sembrano ormai così lontane da una realtà quotidiana? Beh, fondamentalmente i sentimenti sono sempre alla base sia della festa, diciamo, di paese che del matrimonio. Laddove c'è una storia da raccontare, una storia sentimentale possibilmente, una di quelle storie che non si sentono più, tipo, non so, giovani di 24-25 anni si sposano, vogliono avere 4-5 figli. Cioè, ma ho visto una cosa orribile giorni fa, giovane trentenne che sposa vecchia novantenne, cose del genere. Ci sono degli abomini che poi che danno diciamo che poi ci piacciono anche molto queste storie particolarissime, che sono ormai quelle storie un po', no, che si raccontano nel pianerottolo, no, tipo storie da condominio. Noi le andiamo un po' a cercare, perché effettivamente, come tu ben sai, i numeri poi fanno la differenza, quindi anche televisivamente, nel momento in cui ci accorgiamo che una storia di questo genere fa un'audience incredibile, ecco che ci concentriamo a cercare questo tipo di storie particolari. Io un periodo che lavoravo per vari anni a Saxa Rubra, la mattina mi ricordo io stavo nella palazzina accanto alla palazzina di Uno Mattina, sì, e vedevo arrivare sul far dell'alba, io andavo a fare il mio programma, interi pullman dei convogli, da cui scendevano poi signore in costume regionale, signori coi tamburelli, forme di formaggio, salami, apparecchiavano quando cominciava a sorgere, sì, i primi raggi di sole, con le grandi tavolate sentivo l'odore di lasagne, di porchetto arrosto, di, sì, salsicce, sì, e poi cominciavano, ballavano la tarantella a comando quando appunto erano i 30 secondi che venivano, certo, inquadrati, e poi c'era sempre la finta massaia che spiegava come si faceva ancora, che ne so, la ribattuta ciancicata dalla vecchia, qualche cosa schifosa che non è cambiato niente, ancora è ancora così. Uguale, sì, è ancora così. Devo dire che l'audience è sempre molto alto. Mi dispiace parlare di numeri, però in televisione purtroppo funziona così. Senti, ma attraversando questi luoghi che dovrebbero essere ancora impregnati di una civiltà contadina, di tradizioni ininterrotte, il fatto che così spesso ci vada la televisione ha creato una sorta di figuranti addestrati già a recitare la parte. Io queste signore anziane, questi artigiani, questi ballerini di danze perdute, questi sciamani di paese, li vedo ormai abbastanza addestrati a recitare la loro parte in televisione. Noi andiamo sempre qualche giorno prima, andiamo sempre nei posti per cercare di conoscere, di capire quali possono essere le persone giuste, perché il più delle volte è come dici tu, nel senso che ci sono delle persone addestrate, quindi la maggior parte delle volte ci dicono ecco già vi trovate tutto quanto pronto, però noi non ci fidiamo quasi mai, perché di solito cerchiamo di trovare persone veraci, comunque persone che possano dare una testimonianza sincera di quello che può essere appunto ammassare una pasta, fare il pane oppure fare altro, quindi ce la mettiamo questo tipo di impegno, sembra assurdo ma è così, ci piace molto. 800 24 00 24, l'ambito l'avete capito, è quello della festa, perduta, la festa reale. Anche voi passerete i 15 giorni all'anno nel paese di famiglia, anche voi vi compiacerete, passeggerete, vi piacerà imbevervi di spirito burino per sentire soltanto una settimana all'anno il sapore delle radici. Anche voi vedrete questo trasformarsi radicale della festa di paese in qualcosa che deve essere uno spettacolo. Ecco, cosa vi rimane, quanto vi manca, cosa conoscete della vostra festa di paese e quanto le vostre feste familiari, le feste individuali sono ormai impregnate di questo senso televisivo. Io ricordo che noi facemmo qualche mese fa una trasmissione sul matrimonio, abbiamo visto che tra gli usi celebrativi del matrimonio nazionale è molto importante il punto di vista della telecamera, le riprese. Ancora si vedono adesso che ormai è terminata la stagione dei grandi matrimoni, prima ancora che i rigori dell'autunno impediscano alle spose di viaggiare tranquillamente soltanto con l'abito virgineo del giorno più bello la loro vita, beh, si vede a distanza di mesi dalla cerimonia matrimoniale ancora girarsi per le ville romane, l'ho viste a Villa Torlonio, giuro, una settimana fa, coppie di sposi con tutta la troupe che riprendono a posteriori, quando tornano già deflorati, già consumati dalle vacanze nei luoghi lontani, devono riprodurre la felicità di quel giorno per la loro televisione privata e individuale. Il 25 aprile Silvia e Luca hanno avuto il loro matrimonio da favola, abili e generosi registi di questo sì indimenticabile, mamma e papà. Noi abbiamo scelto un abito, un bell'abito, un prezzo su 10.000 euro. Poiché niente è stato lasciato al caso, il conto finale è schizzato velocemente verso un totale per molti neanche pensabile. Adesso se consideriamo solo la giornata di oggi, per quello che è il catering, e per quello che è gli addobbi, i vestiti, non so, e quant'altro, il locale, e poi magari le musiche, deve essere 150.000 euro, non lo so, più o meno. Rosanna Cacio, questo è proprio un servizio, mi sembra, di classico, La Vita in Diretta, classico. Ecco, vediamo i piani di costruzione fittizia della felicità della cerimonia. Allora, il sottofondo musicale viene aggiunto naturalmente alla televisione. In che senso? La colonna sonora che c'era nel sottofondo, musica romantica, musica d'ambiente. Ma io sono anche regista dei miei pezzi, quindi automaticamente scelgo io lo storyboard. Quindi devi, bisogna sonorizzarla? Assolutamente. Diciamo, c'è una ricerca del contrasto fra porsi burino della coppia, sempre, perché naturalmente bisogna cercare coppie che mantengano questo spirito verace, e colonne invece con citazioni alte che evochino ambienti romantici. Certo, si può partire da Vivaldi fino a Lady Gaga, assolutamente, si passa da un estremo all'altro. Diciamo la verità, avere la televisione il giorno delle nozze è il regalo più ambito che potrebbe ambire una coppia. Arrivano richieste incredibili alla redazione nostra, cioè arrivano delle telefonate oppure lettere di persone che dicono: allora, noi ci sposiamo tra 7 mesi, tra un anno, potete venire a riprendere la nostra, perché faremo questo, questo e quell'altro. Poi devi sapere, l'ultima moda in questo momento, per esempio a Napoli, dove il matrimonio ha ancora un'importanza incredibile, dove effettivamente generiamo più matrimoni, è l'anteprima di matrimonio, cioè prima del matrimonio c'è una giornata con fotografi, con telecamere, eccetera, dove si gira l'anteprima del matrimonio. Che fanno? Che ne so, pettinano la sposa? Un servizio fotografico, non so, a Capri, oppure delle foto nei posti dove si sono conosciuti, la consegna dell'anello di fidanzamento, oppure il bouquet che viene consegnato dalla suocera alla futura figliaccia, così come figlioccia, come si suol dire. Quindi c'è addirittura una costruzione che parte prima ancora del matrimonio. Ma questo lo farebbero comunque anche se non andasse poi la televisione a prendere? Assolutamente, certo. E fanno la loro piccola ripresa familiare? Sì. Probabilmente hanno un film familiare, ma di che? No, assolutamente. C'è proprio il fotografo con il cameraman, in questo caso napoletano, che vanno lì e fanno tutta questa messa in scena pazzesca. E ci tengono tantissimo. Poi questa anteprima di matrimonio, permettimi di dire, viene proiettata il giorno del matrimonio. Quindi tutti quanti a un certo punto zitti davanti al proiettore, si vede mentre questa mangiano. Mezz'ora, no, dopo. Oh. Quindi tarda notte, perché ovviamente lì sono luculliani i pranzi o le scene, e si proietta questo anteprima di matrimonio. Sono tutti quanti lì che guardano e si sono conosciuti in quel ristorante, oddio che diamante piccolo o grande, con tutte quante le commenti. Questa ultima frase mi viene un brivido lungo la schiena e gocciola il sudore sulla mia fronte. Nulla mi impedisce di pensare che venga ripresa anche la prima notte per proiezioni più private. Guarda, secondo me ci può essere. Perché non l'attrezzatura sono, si trovano già sul posto. C'è tutto. 800 24 00 24. Allora sbrigatevi, fatemi sapere se avete avuto esperienza vicina, se avete lambito situazioni del genere. Non sono poi situazioni così paradossali, così lontani dall'esperienza quotidiana e familiare di ognuno di noi. Guarda, cosa è arrivato, guarda, sta per arrivare la sposa. Madonna, lei è bellissima, guardala. Chi? Guarda quell'altra. Chi? Guarda qua. Guarda, amore, guarda. Dove? Guarda là, non guarda. Guarda quella. Quella è la cognata del fratello del cugino del secondo grado. Ma chi? Vedi quella? Ma io dico, che ridicola! Madonna! Ma te puoi mettere un vestito verde su una chiesa gialla? Questa mattina, scusatemi, l'avete capito, sono particolarmente inviperito perché mi hanno segato il profilo di Facebook, quindi fra profilo pubblico e privato, lo so, sentilo, significa 10.000 persone, non so dove sono andate a finire, quindi mi sento orfano, mi mancano 10.000 persone che tutte le mattine perlomeno mi seguivano in diretta e commentavano. Ho tentato velocemente di fare un profilo tarocco nei 5 minuti in cui parlavo dell'introduzione, ma ho abbandonato ogni velleità. Questa mattina sono solo, sono senza il supporto informatico, la prima volta dopo tanti anni, e mi sento veramente orfano. Rosanna, buongiorno. Buongiorno, però io sono qui con un sorriso grandissimo. Sì, ma non sei te Rosanna, è Rosanna che sta da un'altra parte. Rosanna al telefono. Pronto, pronto? Rosanna della festa della maschera di ferro. Sì. Ah, ecco, la chiamo. Si chiama Rosanna lei? Sì. No, perché non risponde? Prego. Sì, siamo qua. Allora, Rosanna, qual è l'importante contributo da dare alla nostra trasmissione? Volevo dire che qui a Pinerolo, in Piemonte, c'è la storia della maschera di ferro, la rievocazione, il 3, 4 e 5 ottobre. E come avviene? Avviene con tutti i manifestanti, come dice lei, con tutti gli arcieri, con i quelli che accompagnano il prigioniero, alla sera del sabato sera lo accompagnano alla prigione, dove c'è ancora proprio quel piccolo castelletto, e ci sono i Dardagnan, ci sono tutte queste cose qui, è tutta una tradizione che sarebbero i gemelli di figli chi di chi, della sì, delle una vecchia storia. Sì, è una vecchia storia che io non è che sono così erudita, io lo sento sempre. Poi come funziona? Ogni famiglia nel suo piccolo, nel suo calore familiare, si mette delle maschere di ferro e si imprigiona. Senza, le mettono una maschera in viso, lo tengono chiuso al sabato, poi la domenica lo vanno di nuovo. Beh, un giochino sadomaso sembra. No. Con la carrozza, diciamo che è una cosa bella. Poi a una certa ora, e quest'anno c'è anche una specie di lotteria, a una certa ora si tolgono la maschera e si capisce che è un personaggio. È uno del paese. Un personaggio anche, c'è stata anche persone dello sport, ci sono stati anche. Ah, è un VIP quindi. Anche un personaggio che conduceva quella trasmissione la domenica mattina, non mi ricordo più il nome. Tiberio Timperi. Di questo scatto. E poi adesso quest'anno hanno fatto una lotteria, una meraviglia, vince, insomma qualche cosa così, ed è interessante. È mezza di sera, c'è un pulpito in mezzo alla piazza del paese, Piazza Fontana, e così chi è, chi non è, tutti lì, cioè è una cosa bella. Io adesso sono già, mi sembra, l'11ª edizione, e lei si diverte un sacco, diciamo. Adesso siamo già un attimino che saturi, perché poi sono sempre quelle passeggiate, i balletti, bei vestiti. Io facevo la sarta, quindi per me è bello vedere i vestiti, perché io poi riproduco anche le bambole con quei vestiti che vedo. E le maschere di ferro chi le fa invece? La maschera di ferro chi la fa? Il personaggio? No, la costruisce, c'è un fabbro che fa questa maschera. Ma quella maschera sarà quella che c'è da sempre. Ah, quella sempre la solita, sì. C'è da sempre quella maschera lì. E questi bei vestiti che usate per la festa, poi durante l'anno li mettete? E poi la domenica, no, li metteranno da qualche parte. La domenica mattina c'è una bella messa quest'anno in un santuario suo, a San Maurizio, nella chiesa grande proprio. E andate tutti mascherati, cioè tutti vestiti? No, io no. Beh, gli altri sì. Tante persone di Pinerolo si affittano gli abiti, ci sono dei bravi sarti, dei ragazzi giovani proprio che si sono messi proprio a fare quello come lavoro. A me sarebbe piaciuto, però come ho detto alla signorina, io non sono una ragazzina, mi vado mica a vestire tutta in pompa magna. Ci sono i guari quartieri, c'è il quartiere del Duomo, cioè il centro, c'è il quartiere del... Vabbè, un palio cittadino, come avviene in tante città d'Italia, come il Calen di Maggio a Assisi, come avviene a Siena, come avviene in tanti borghi che ancora sono attraversati da qualche vestigia storica non deturpata dalla mano del geometra, c'è questa meravigliosa possibilità, ma mi conferma la signora che abbiamo ascoltato, questa meravigliosa contaminazione. Al centro della festa della maschera di ferro si scopre e appare Tiberio Timperi o uno dei personaggi meravigliosi, non so, Magalli, la Vinci Guerra, i personaggi che animano la televisione, che danno quel senso di partecipazione cosmica alla piccola festa di paese. Melog 2.0. Si arriva finalmente al ristorante da Abdul il matriciano, cucina casareccia. E lì gli invitati hanno il cocktail di benvenuto sotto una pergola al fresco preparato un paio d'ore fa, che adesso in pieno sole, il parmigiano tutto sudato che sta lì come di buttatemi via che io ormai sono ridotto uno schifo. E poi ci stanno i tramezzini farciti, tanti, ce ne stanno tanti che col sole il tramezzino, la parte superiore, dopo un paio d'ore di sole, se imbarca verso l'alto e lascia allo scoperto il wuster che tutto sporco de maionese dice: ma tonna mia che caldo, eh? A saperlo non finivo. Questo era Brignano che raccontava i paradossi dei matrimoni schifosi, ma ai quali possiamo assistere facilmente ogni volta che ci invitano a un matrimonio, soprattutto quando la calura sovrasta ampiamente tutti gli sforzi per fornire un ambiente confortevole. 800240024, quello che vorremmo capire questa mattina, quanto è necessario accettare o far uscire o fare i conti con quell'aspetto kitsch che anche noi, che nel nostro humus familiare, nella nostra cerchia di amicizie, e quanto questo ci compiace, ci diverte, ci fa piacere, in fondo ci dà una dimensione umana, nonostante che la televisione di questo materiale faccia oggetto del suo digerire quotidiano. Ma questo è immancabile, è innegabile, non se ne può fare a meno. dopo che c'è rimasto poco e niente sui piatti, a regala, antipasti, namo che se magna, arrivano gli sposi, prendono i tavolini così, a come quattro dei bastoni, c'è gente che occupa i posti con i tovaglioli per la madre, la sorella, l'amante, e tutti quanti occupano i posti, vai, antipasti, ecco gli antipasti, antipasti di mare, poi tris di pasta sul letto di pomodorini al sole, trionfo di carne sul letto di verdure, suprema di pollo sul letto di pane saporito, e poi tutto sul letto, poi dolce caffè, ammazza caffè, la trota al cartoccio sul letto di spinaci, torta nuziale sul letto, perché dopo tutta sta magnata dice datemi il letto, perché sennò io non ne faccio andare. È interessante come anche la compilazione della lista Le vivande in un matrimonio, nel comunque citare stati d'animo, referenze, luoghi dell'esistenza che non competono, non hanno nessuna pertinenza con le persone che lì si siedono e consumano. Passato il periodo della rughetta, passato il periodo del risotto e champagne, come dice giustamente Brignano, è il momento della stesa sul letto. C'è sempre un letto di qualcosa su cui appoggia qualcos'altro. Su questa complicata, fastidiosa materia del tirare proprio fuori le proprie radici, vedo che c'è una grande reticenza da parte del pubblico. Lo capisco, è molto meglio arrovellarsi e parlare dei problemi che affliggono l'umanità, il cosmo, la politica internazionale. In questo siamo tutti bravi a sfoderare le nostre competenze, ma quando bisogna parlare degli stracci in famiglia, bisogna parlare delle proprie origini contadine, dell'anima burina del quale è infarcita ogni nostra parvenza familiare, e tutti ci vergogniamo. Invece chi non si vergogna è un vero amico, che è Guido Guidi Guerrera. Guido, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Guido, che è un grande esperto in tradizioni culinarie, ha appena scritto un libro per Aliberti Editore, Lo schiticchio, a tavola con il padrino, che colloca nel suo humus d'origine, che è la Sicilia, più o meno quello che noi stiamo cercando di confezionare attraverso il linguaggio comune della lettura televisiva. Mi sbaglio, Guido? No, assolutamente. Lo schiticchio è la grande abbuffata, la grande mangiata che coinvolge non soltanto gli uomini di malaffare di cui io racconto nel mio libro, ma anche le persone di profonda anima burina, come dici tu, quindi il popolo che si mette di fronte a una zuppiera enorme di pesce stocca ghiotta e poi gioca a quell'infame gioco che si chiama padrone e sotto, padrone e sotto, che significa che qualcuno soccombe e va a finire proprio direttamente sotto il tavolo ubriaco cotto. E indubbiamente non rappresenta, come dire, la quintessenza della raffinatezza, però nello stesso tempo indica che tanto il mondo della criminalità che io rappresento nel libro, quanto quello più popolare, più folcloristico, sono fortemente confinanti, almeno per quanto riguarda queste radici e queste connotazioni. Però Guido, noi stiamo toccando ancora un altro livello. Il primo livello è quello esteriore che tutti possiamo vedere, con il quale ci contaminiamo ogni volta che ci invitano a una festa o a un matrimonio. Il secondo livello è quello che la collega Rosanna Cacio, per La vita in diretta, va a vedere con un livello di volontaria, spontanea e piacevole artefazione, perché la televisione viene, ci riprende, dobbiamo rappresentare noi stessi. Questo che racconti te mi sembra un livello un pochino più intimo e segreto. La televisione è ammessa in un contesto come quello che tu stai raccontando? Sì, perché tu pensa per esempio a questi telefilm che si chiama, questa serie che si chiama I Sopranos, no? Che sono stati, anche se mandati poi non so per quale motivo, a ore proprio ultra notturne, no? Quasi antelucane, non capisco per quale motivo vadano a quell'ora, e quindi sono pochissime le persone che riescono a vedere questi seriali, però devo dire che c'è una forte attenzione per quanto riguarda la celebrazione del mafioso davanti al cibo, e questo cibo, questo rito del cibo, sembra l'intimità, diciamo, del rito, della cerimonia del cibo, sembra in qualche modo un momento di emendamento della dimensione delinquenziale del mafioso, perché tutto si svolge in famiglia, tutto si svolge in un momento rassicurante della giornata del malavitoso, e quindi in questa misura certamente anche lo spettatore o la persona a cui si racconta, c'è una forma di deviazione, ma questa deviazione, se tu ti ricordi, era molto presente anche nel film, nella trilogia del Padrino, dove c'erano momenti appunto del matrimonio, il racconto appunto di come si faceva esattamente, di come si cucinavano le polpette. Clemenza racconta a Michael Corleone come si fanno le vere polpette, così come gliele aveva insegnato la mamma. Quindi ci sono questi momenti intimistici che vorrebbero surrogare invece le grandi sparatorie e i momenti in cui si pensa a come eliminare il nemico, che appunto anche in siciliano si dice schiticchiarsi, cioè farselo fuori. Rosanna Cacio, hai sentito quello che ha detto Guido Guidi Guerrera? Anche voi spesso, quando andate con la televisione, soprattutto a certe latitudini, e qua adesso non cominciamo a dover per forza alzare gli steccati e fare distinguo, è logico che quando si va a vedere un matrimonio in certi ambiti geografici attraversati fortemente da fenomeni camorristici, viene il sospetto che dietro c'è sempre qualcosa che forse non si vede, ma sarebbe meglio non rappresentare. Hai mai avuto questo sospetto? Sì, diverse volte, in diverse situazioni, cioè si capita in, ecco, le richieste, ci tengo a dirlo, perché tante volte, anche se nominiamo, ecco, Gomorra di Saviano, c'è una citazione legata per esempio alla vita in diretta, c'è proprio una frase che dice più o meno così: le stesse feste dove partecipano le telecamere della vita in diretta. Ecco, noi non è che possiamo fare un'indagine su tutta la popolazione, in questo caso campana, ecco, si capita a Salerno come a Napoli, come a Caserta. Riceviamo degli inviti che sono delle lettere, delle email, noi parliamo con la sposa, la futura sposa, o con non so, la futura diciottenne, no? Adesso vanno molto di moda le feste per i 18 anni. Sì, diciamo che sono mesi che i giornali non parlano d'altro, ecco, cioè, ecco, di una famosa festa di 18 anni. Ecco, sono tipiche. In più di un'occasione mi è sembrato di capire che ci fosse una situazione strana, quantomeno, perché così capita in paesi, diciamo, delle costruzioni piuttosto fatiscenti, e poi ecco, dentro queste case c'è di tutto e di più: plasma incredibile, delle tende meravigliose, ma va da sé che in luoghi ad alta incidenza, è chiaro, incredibile, che io non ho mai visto nella mia vita, ma che meraviglia, cioè, il tutto per l'occasione. Sarebbe razzista, secondo me, pensare ma forse questi hanno, no, sono personaggi del malaffare. Quindi alla fine io faccio un'intervista alla festeggiata, alla futura sposa, e cerco di capire la storia, e la citazione di Saviano secondo me è scorretta, nel senso che se mai siamo capitati in queste situazioni, sicuramente siamo capitati senza sapere, perché non è che ognuno può fare una denuncia, diciamo, o c'è, una anche, c'è anche una realtà qua, non per ammorbidire la storia, è che a certe latitudini sono capaci di indebitarsi per generazioni, sì, per cercare, sì, un matrimonio. Io so di persone che poi per tutta la vita paga la famiglia, sì, i debiti per il matrimonio sontuoso. Melog 2.0 800 24 0024, riprendiamo a parlare di quelle che sono feste di famiglia, feste pubbliche, feste di paese, il concetto di festa quando è attraversato dalla necessità di una rappresentazione che vada oltre i limiti geografici nei quali è sempre svolta l'intimità di un luogo di celebrazione legato a un santo patrono, a una ricorrenza, a un passaggio epocale di un piccolo ristretto gruppo di persone. Maria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo dare il mio contributo, anche se questa forse è una festa privata più che pubblica. E ce la racconti? Io parecchio tempo fa lavoravo da un fotografo e mi sono capitate delle fotografie di una giovane coppia appena sposata e avevano fotografato il lenzuolo della loro prima notte di nozze naturalmente macchiato di sangue, visto che la sposa probabilmente era vergine. Sì, vabbè, non è una prova, bisognerebbe... Pensi, oggi non riesco manco a stabilire chi ha ammazzato la ragazza di Garlasco, si figuri se dalla foto di una macchia di sangue, che potrebbe essere qualunque cosa, sì, noi possiamo stabilire la reale deflorazione di una sposa, ma figuriamoci. Vabbè, anzi, è un'escusatio non petita, è prova che la sposa non era nelle condizioni che loro proclamano, il fatto che abbiamo fatto la foto. Ecco, infatti, vabbè. Quindi lei ha visto queste foto, venivano fatte... Sì, ha visto queste fotografie e le facevano... per tenerle probabilmente come ricordo, come testimonianza di questo fatto, insomma. Ma a che epoca più o meno risale questo reperto? Circa 30 anni fa. Può dire più o meno la zona geografica in cui veniva fatta questa? Sì, grosso modo siamo nella zona, nella provincia di Brescia, vicino al lago di... Ecco, è caduto, una censura nordica ha bloccato la signora che stava rivelando un retaggio insospettabile appunto nella zona del Bresciano. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Innanzitutto devo dire che lei è un essere simpaticissimo ed arguto. Sì, ma non sa ruffiani, vada al punto. No, ma dunque, non volevo riferire la mia esperienza personale, ma di esperienze qui in Campania, nel Salernitano, dove tutte queste follie, anteprime fotografiche, elicottero, fuochi d'artificio, banchetti, addirittura li fanno per le prime comunioni dei bambini. Mi ricordo di un mio cliente che negli anni 80, per esempio, spese 50 milioni per fare un concerto di tutti i cantanti neomelodici più famosi dell'epoca. E credo che questo sia molto diseducativo per i bambini, no? Perché il momento in cui poi si accostano al matrimonio è chiaro. Sì, soprattutto uno si chiede dove l'abbia trovato con tanta facilità 50 milioni il papà per farlo. Appunto, questo volevo soltanto riferire, mi sembra una cosa veramente fuori della grazia di Dio, insomma. Tutto, no? Si fa per i bambini, ma non fino a questo punto. Tano, buongiorno. Sì, buongiorno. Nicoletti, lei ha chiesto, no, di farsi, sì, coraggio e buttare fuori gli stracci, no, delle nostre feste. Vedrà se sentirà meglio poi, lo dica. Come? Lo dica e poi si sentirà meglio. No, io sono completamente l'opposto. Dico, bisogna staccarsi, bisogna avere coraggio per finirla con tutta quella che alla fin fine nelle riunioni familiari, nelle riunioni di amici si finisce per criticare il fasto del matrimonio del cugino, della chicceria dell'altra cugina, eccetera eccetera. Ma però almeno se hanno argomenti in famiglia, se non si parla male di qualcuno, che ci si dice in famiglia? No, bisogna incominciare a fare delle cose per non parlare più male di nessuno. Io per esempio, sa di chi parlo male? Di quelli che si sposano per fare gli anticonformisti in jeans e maglietta e poi vanno, non so, a prendersi una cosa al bar. E trovo una scelta molto più esibizionista. Non so lei che ne pensa. No. Io proprio per il fatto di discostarsi di tutto quello, perché alla fin fine... Lei come si è sposato? Parlando. Lei come si è sposato? Noi abbiamo fatto, io sono argentino, e abbiamo fatto una grigliata in riva al lago dove ci siamo conosciuti con tutti gli amici in jeans e maglietta. Ah, perfetto, benissimo. Abbiamo al telefono adesso una meravigliosa esperienza. Fabio Di Cocco, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. L'abbiamo colta, lei è la persona che cercavamo, le diamo gli ultimi minuti perché è importante. Lei è un attore del Teatro del Giardino e lei organizza una meravigliosa rievocazione storica, lo Ius Prime Noctis a Guardia Grele, in provincia di Chieti. Di che si tratta? Allora, visto io la seguivo stamattina... Siamo in fascia protetta, ma vada al dunque, se no non facciamo in tempo. Sì, insomma, dove tutto è fintamente vero, noi siamo veramente finti, nel senso che... Beh, ci credo. Ce la siamo completamente inventata. Abbiamo dichiarato proprio questo gioco medievale. E in sostanza si tratta di una rievocazione che nasce da ritrovamento, cioè Guardia Grele, di un coperchio di una tomba del barone Napoleone Orsini, vissuto intorno alla fine del 1300... che aveva probabilmente in mano una spada, però la spada si è rotta, in mano è rimasta soltanto l'elsa. Per cui da questo, visto che la posizione è quella supina, con le mani raccolte nella zona pelvica, con l'elsa in mano... Pensavate a una protesi falli. Nasce questa idea degli appetiti sessuali del barone. In realtà noi abbiamo sempre dichiarato che questo è un gioco, anche se qui si è creata anche una polemica. E che avete organizzato? Andiamo al punto, se no non fa tempo di... Rispetto a tutto quello che si fa, insomma, sì, non abbiamo messo gli sbandieratori, anche se sul sito si trova scritto sbandieratori, perché nel 300 insomma era ancora un po' presto. Però c'è, cioè, la sera prima si sceglie la sposa, c'è un concorso che noi facciamo per scegliere la Vergine, perché... Sì, ecco, immagino le difficoltà, una... poi... Difficilissimo. Questo concorso pieno di ragazze che si iscrivono, scegliamo la dama che poi rappresenterà la manifestazione... Sulla parola, e poi? Esatto, e poi la giornata dello Ius Prime Noctis, che si celebra intorno alle prime due settimane di agosto, il primo sabato, il secondo, c'è questo corteo della sposa che arriva in chiesa, e mentre sta per entrare nella chiesa con tutti i fasti del matrimonio che si sta per consumare, c'è l'arrivo del barone che reclama lo Ius Prime Noctis. E lei glielo dà? No, non glielo dà, nel senso che il barone strappa il velo della sposa e quindi fa un oltraggio e dice soltanto che reclama il diritto. A quel punto c'è una sommossa popolare, lo sposo si ribella e il barone viene cacciato con tanto di... randellate finali. Quindi celebrate una volta l'anno, in realtà, l'apoteosi della virtù cittadina. Quindi alla fine sono tutti contenti, perché dimostrate che storicamente le donne di guardia grele non la danno al barone. Va bene, grazie, saluto Fabrizio Intonti, ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni. Scusate, questa mattina il fatto mi hanno depennato da Facebook veramente mi indigna, e spero che la cosa si ripristini quanto prima, anche per il bene di questa trasmissione. Ringrazio Rosanna Caccio, che mi ha seguito con grande attenzione, e domani, se ci saremo, saremo qui con grande gioia. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.